Questa splendida giornata di pioggia, mi innamoro di te, mi innamoro del tuo viso, mi innamoro del tuo sguardo. In questa splendida giornata di settembre, mi innamoro di te. Pensare che fino a ieri non contava nessun altro oltre a me, ora incrocio il mio sguardo con il tuo, i nostri occhi son diretti verso nuovi orizzonti. Persona, immerso nel mio mondo di incertezza, ora anche se piove a menadito, tengo stretto il mio futuro tra le braccia e con grande sicurezza mi rialzo da terra, mi risollevo da questa pozza malvagia, rassicurato da questa nuova vita, non potrò mai più temere il buio. Questa splendida giornata di pioggia, mi innamoro di te, mi innamoro del tuo viso, mi innamoro del tuo sguardo. In questa splendida giornata di settembre, mi innamoro di te.